Domani mi devo prendere un pezzo di tubo da 10, gli faccio 10 spire proprio così. Ciao, adesso facciamo girare, così mi assento un attimo. Oh Carlo, io ho la stessa antenna, la Sirio Thunder, ho marcata Midland ma identica, però staziona di niente. Io la mettevo in terrazzino su un porta, sai cos'era? Un porta asciugamani da bagno in metallo, no? Proprio messo nell'angolo. È sempre adatta, diciamo, discretamente bene come stazionaria. E conta una cosa, il manuale di quell'antenna ti dice che devi, secondo loro, seguire delle lunghezze di cavo ben precise in modo che l'antenna non abbia stazionarie. Guarda, online trovi il PDF con le istruzioni che ti dice quale cavo, che metraggio devi usare per non avere stazione. Io invece ho messo un cavo casuale da 10 metri a caso, proprio lunghezza random, che non era nelle misure che gli indicavano loro, e andava benissimo. Guarda un po' come tu scendi adesso, 3, 4, 5, 6. Ehi Antonè, cupo, come appena sono entrato, bello cupo, capibile, però bello cupo, vai Luca. Sì Antonè, non è buona come radio, è molto, sembri dentro un tubo. Adesso guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso vai molto meglio, adesso vai molto meglio. Ok. Vabbè, ho passato il mal di gay più che altro, cioè con il microfono amplificato, guarda tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prova a abbassarlo ancora di più se puoi e vedrai che esci limpido limpido così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È migliorato da prima quando ti ha dato Marco il controllo che eri cupo, molto cupo, comprensibile anche da me, però adesso ha migliorato, capito, tieni passo, magari il guadagno microfonico e forse sci meglio. Ciao Luca. Rottoni, ciao. Ciao Luca, beh, come lo senti l'apparecchio tuo, quello che mi hai dato tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il microfono amplificato, quello F16, quello che ti ho fatto parlare ieri. Esci bene, sì, si sente bene. E io di radio come sto uscendo? Bravissimo, forte. Bene Meda, comunque dall'aggiornamento UPS che adesso mi avete fatto venire in mente di andare a controllarlo, l'antenna è a Milano alle ore 14. Aspettate, avevo un'antenna che devo aspettare dietro 3 settimane che gira gira. Sì, sa cos'è Antonè, tanto mi anche a piazzarla, il tempo non è che sia buono, sta sempre più vicinando, salvo che non trovi proprio quel giorno casuale che non piove. Già lo sono infatti, appunto per quello, quindi già va bene, ho capito, il difetto di questa tale che ho... Soltanto adesso, se uso la macchina manetta esce il cupo, se uso la fa il culo, se uso la macchina invece a metà esce benissimo, vabbè, meglio così, sono contento. L'amplificazione com'è? 5? E a te Antonio piace questa modulazione, cosa ne dici? È passabile? Per me sì, non lo so, per gli altri non ti so dire. Vabbè, è più che altro per me, non per altro. E quindi a un certo punto va bene. E io mi dimando modello vecchio, quindi già va bene. Sia tranquillo, vabbè. Ok. Comunque Marco, dopo mi cerco perché non mi hanno dato niente di istruzioni, me l'hanno regalata, è praticamente un'antenna nuova, era ancora dentro la busta, capito? Però non ci sono le istruzioni e le indicazioni riguardo il cavo che dicevi, però penso che se frugo online, PDF già trovo tutto, così poi come fa una bella giornata mi appento un pochettino e vedo un po' se riesco a uscire meglio con quella passando le stazionarie, capito? Perché così sono alte evidentemente, non mi fa, mi manda in blocco la radio. Sì, sì, sì, guarda, tu devi solo mettere su Google Sirio Thunder, perché nella Midland avevo un altro nome, no, no, ovviamente di cambiare il nome. Allora, Sirio Thunder User Manual PDF, vedrai che lo trovi subito, la Sirio stessa ti dà il PDF. C'erano delle lunghezze predefinite, però tra l'altro io con un cavo casuale di 10 metri, cioè che proprio ho comprato da Fusaro, 10 metri da 10,58, mi vergognavo anche a chiederlo, attaccati PL, fatto, bello, massimo nei due agli estremi dei canali. Va bene, bianco per me, avanti Luca. Io stacco per un po', se mi ritrovo più tardi bene, ma stacco per un po' che devo sistemarmi alcune cose qua a casa. Comunque domenica non piove, per cui se arriva venerdì, sabato nivara l'aria, detto in inglese, però domenica dovrebbe essere una bella giornata e magari mi dedico a piazzarla. Avevi già quel grasso famoso per cuscinetti, in modo da isolare bene... Magari sullo stilo ci puoi anche mettere l'agglomerante, però non un passaggio solo, più passaggi. Io, Antonello me l'aveva detto di mettere il grasso lo stesso sul PL sotto, però io non volevo roba che sporcasse, comunque sia, non mi piace, non avevo anche, avrei dovuto ritardare l'installazione, andavo a comprare, e l'autoagglomerante poi ne abbiamo fatto diversi strati, cioè non mica uno strato solo, tanti strati, arrivavi alla fine, tornavi indietro, poi di nuovo, poi, guarda, ci sono sicuramente oltre tre strati, probabilmente cinque strati di agglomerante, tutto proprio dalla filettatura dell'antenna fino al cavo compreso. Dall'officina mi ho preso la vasellina a uso meccanico, non quella della farmacia, la vasellina che si usa proprio che usano i miei meccanici, quella l'ho presa, c'è un altro vulcanizzante e per cui spero di riuscire a fare un buon lavoro. E poi Antonello gliel'avevo detto, no, il grasso no, ho detto vabbè, mia l'antenna, mia la scelta. Però come aveva spiegato Claudio, sarebbe meglio mettere il grasso, no? Io però ho messo tanti strati di agglomerante in modo che anche se si dovesse rovinare la superficie dell'agglomerante, a quando arrivare sotto al PL, questa c'è quasi 12 anni, quindi a quando a mangiarsi tutto l'agglomerante l'antenna sarà già vetusta da cambiare di suo, capito Luca? Va bene, di nuovo bianco per me, vai Antonello. Non lo so, anche io ho visto la portante, segnale molto alto, o era Antonello, però non stavo uscendo di radio. Marco, antenna Thunder, trovato, grazie. E praticamente ci sono 2,73 metri, 5,46, 8,48, praticamente devo scegliere una di quelle lunghezze. Sì, in teoria sì. Però tra l'altro io avevo preso un cavo casuale, mi sarà andata di sedere, di QSO, di culo potremmo dire anche, e non avevo stazionaria. Va bene, l'importante è che non ci siano magari elementi metallici vicino allo stilo. Se sono sotto è un caso, no? Va bene, ma di lato no, capito? Va bene, bianco di nuovo, dai che devo farlo. Vai Carlo. Sono qua. Grazie comunque delle info. Antonello, eri tu quello che ha tentato di uscire di radio, segnalone forte, ma non è uscita la radio. Guarda cosa andata, sì, sono io. Allora, mi ascolti, sì. 9 qua, mi dai 9 più 40 con picchi positivi. Ok, vabbè, aspetta un attimo che scendo di watt. Un attimo. Ora, ecco qua, 10 watt adesso. Ecco, adesso vai meglio, adesso vai meglio, ecco, così anche la voce, la radio è più pulita e tutto. Adesso va meglio, non ti preoccupare. Sono contento. Stavo frugando su Google, come ha detto Marco, ho trovato le istruzioni, adesso me lo stampo questo foglio così non sto sempre a cercarlo, però c'è l'assirio, proprio lo mette a disposizione, capito, è sul sito ufficiale dell'assirio. Sì, ci sono varie lunghezze in base alla lunghezza: 2,73, 5,46, 8,48, 12,34, 17,98 e 23,77. Quindi dovrei avere un cavo che insomma non sia troppo lungo, e quindi in base a queste lunghezze mi devo prolungare, però penso che con 8,48 dovrei andare bene. E vabbè, non c'è nulla a quello, la verità. Più che altro è lo stilo che devi regolare. C'è la Energy, se ti piace la Energy 5 ottavi è solo. Non ho capito nulla. Quello devi regolare. Nel cavo non c'entra proprio niente, la verità. Ma comunque sia, va bene. Non c'è problema. Adesso esco un attimino che devo andare a prendere la roba a Simona, devo fare in farmacia, devo andare, di che altro, per farmi cambiare del medico, quindi a un certo punto 2 minuti e poi rientro, va, ok? Va benissimo, già siamo qua, non ti preoccupare, tanto io qua sono in ascolto. Sì, antenna Tuber, Marco, forse Antonello non aveva capito che tipo di antenna fosse, sì, è proprio così. Penso che prendendo lo spezzone di cavo giusto, come indicato, dovrei abbassarle parecchio le onde stazionarie. Adesso vediamo. Luca, se ci sei ancora, io faccio anche io un attimino di bianco, che vado in cucina a prendermi un bicchiere d'acqua, che sono rientrato di corsa, e poi nel caso già sono in radio anche sino all'ora di cena. Dai, ci sentiamo dopo. C'è qualcuno su 10? Hola. Ciao già, c'era un medigente, sono spariti tutti all'improvviso, chi al telefono, chi farmacia e tutto. Sono anch'io. Buonasera a tutti, dai. Ciao e auguri per la Befana. Grazie Gianni, altrettanto. E allora, ciao, com'è andata? Bene, io stasera stavo sperimentando un'antenna, ma mi dava le stazionarie troppo alte, poi Marco mi ha dato qualche consiglio e domani adesso con tutta calma vedo un po' se riesco a sistemare le stazionarie, capito? Adesso ho rimesso quella che avevo in precedenza e già sta andando bene. Diciamo questa mi dà stazionarie sul canale 10 meno di uno, considera che sono appoggiato alla ringhiera, capito, se no avrei anche meno. Sì, con questa vai alla grande, perlomeno da me arrivi benissimo. Sono andato al concerto. Freddo c'era Gianni. No, come ero coperto stavo sudando, ti dico la verità, anche troppo caldo, mi sono coperto troppo. No, freddo no, io perlomeno non ne ho patito, solo che mi si è abbassata la voce e non riuscivo più a parlare. Magari c'era umidità ma non te ne accorgevi perché c'era una fiumana di persone, capito? Sì. E la sera già c'era un po' di temperatura bassa, dai, sì. E niente, prima c'era Antonello, c'era Luca, io sono entrato, poi è venuto mio figlio, quindi mi sono dovuto allontanare. adesso sono rientrato a casa e Marco con il quale stavamo parlando appunto di questa antenna mi ha detto dei consigli, ho trovato le istruzioni e lui mi ha detto per abbassare l'SVR praticamente devo tagliare il cavo come indicato nelle istruzioni, cosa che farò domani ormai, perché io non è che devo aspettare il tempo brutto o bello, tanto sono sul terrazzino per cui è protetto anche dalla pioggia. E domani tanto sono a casa, sono in ferie sino al 9 e rientro il 10 mattina, capito? E quindi in questi giorni sono a casa così, un po' in fanciolle, sto uscendo, stamattina ho fatto un po' di scuola guida a mia figlia, capito? E dovevo andare in palestra, lì Piazza Lessegni, dietro Piazza Lessegni, dai, c'è una palestra lì. Infatti l'ho fatta guidare e già sta andando benino, capito? Speriamo che questo istruttore mi insegni un po' adesso a fare i parcheggi, qualcosa gli insegnerò anche io domani, che sono giorni di festa, saliamo su al tappettino, capito? Perché lei ha già il foglio rosa perché ha passato la teoria, e così un po' la scuola guida, un po' io, capito? Vediamo se riusciamo a fargli prendere la patente anche a lei. Già le serve, dai, già le serve. No, Marco ha trovato la scuola guida di calcolo, c'era un'istruttrice che non era buona a niente, per carità di Dio, gli ha spillato tutti di quei soldi in guide. E lo immagino, capito? E invece mio figlio lo stesso, avevamo fatto così, aveva fatto tipo una ventina di lezioni con loro, però prima gliel'avevo insegnato io a spuntare, capito, a guidare, così ho fatto con mia figlia. Lei adesso ha fatto le 12, quelle obbligatorie, però le ha fatte tutte spezzettate da luglio sino a dicembre, diciamo. E adesso gli ho detto, tu chiedi altre 12 lezioni, però per cortesia che te le metta i 2-3 tutte insieme, capito? In una settimana almeno fai 3 lezioni, ne fai altre 12, poi vedi se ti può insegnare un po' i parcheggi, capito? Così un po' lui e un po' io, poi vediamo se lui ritiene opportuno presentarti, perché dura il foglio rosa un anno dal momento che tu hai passato l'esame. Però entro l'anno devi presentare la ragazza, non è che me la lasci così, no? Poi non so, se ti bocciano, io credo che tu abbia un'altra possibilità, capito? Perché può anche andarti male la guida, ti possono anche non dare la patente, e per cui ci vuole il tempo anche per fare eventualmente un altro tentativo, dai, di esame. E adesso vediamo, capito? Quindi a casa, insomma, un po' stanno venendo i ragazzi a trovarmi, chi di mattina, chi di sera, e niente, ho sistemato un po' di cosette in questi giorni che sono in ferie, e buona Befana a tutti, a te Mike, non lo so se c'è Marco, riprendi tu. Marco, magari è impegnato Marco con la mamma, vabbè, no Marco, ha fatto la teoria, è passato subito, ha fatto la guida, la prima volta l'hanno bocciata, la seconda l'hanno bocciata, ha perso tutto. E invece Filippo, mio figlio, ha fatto la prima volta, è andato alle lezioni di teoria, e lui pensando di sapere tutto, non si è allenato con i quiz, è andato e l'hanno bocciato. Al secondo tentativo ho detto allenati con i quiz, si è allenato e l'ha passato subito. E poi subito dopo pochi mesi ha fatto la guida ed è passato anche alla guida, capito? E lui l'anno del diploma aveva fatto il diploma il 2 di luglio, mi ricordo, e dopo una settimana aveva la guida ed era tornato a casa con la patente. Magari dove l'hai fatta andare a scuola guida? Datore Canue e Coso e Franco Chessa in via degli Astronauti. Ho capito. No, Marco ha trovato un'istruttrice che non serviva a nulla, mi sa che ci hanno giostrato un po' con Marco, gli hanno fatto fare un bel di guide, gli hanno detto che era pronto, è andato, e l'ho fatto anche qualche guida io e andava bene, boh, è stato solo sfortunato e basta. Sicuramente magari era un po' teso, magari ha sbagliato qualche cosa, e magari l'istruttore è un po' balordo, capito, però alla fine la presa, importante è quello. Appagappa. Ho girato per andare al concerto 3-4 volte vicino a casa tua. Alla fine mi sono scocciato, sono sceso al ponte nuovo, mi è venuta in mente una cosa, ho detto ma al ponte c'è quella rientranza salendo che è quasi alla fine, mi pare che la parcheggio lì, ho fatto così, l'ho parcheggiato lì e sono andato a piedi. Perché mi hanno detto che il giorno era tutto pieno di macchine perché è venuta molta gente da fuori, capito? Dice che era piena la piazza e a un certo punto non facevano neanche entrare più le persone perché, capito, era strapieno e quindi anche parcheggi eccetera. Tu avresti dovuto provare, sai dove? In via De Carolis, capito? In quelle viute così, via Bozzi eccetera, e molto probabilmente lo trovavi in quelle zone lì che erano vicine. Tutte me le ho fatte, quelle mie le ho fatte tutte, Carlo, non c'era un buco, nulla. Dove c'era il buco è perché c'era passo carrabile, se no non c'era buco. Ma io l'ho trovata lì, poi l'ho visto mettendo a me e l'hanno messa in tre dietro di me, capito? Io ero il primo e sono arrivato al concerto, praticamente mi sono trovato con gli amici, poi siamo andati al concerto e siamo arrivati tra i primi. Sì, oppure potevi anche chiamarmi, ti avrei fatto parcheggiare qua da me, capito? Io già me l'avrei messa giù in garage, capito? Ti lasciavo il posto io, tanto io non sono uscito, capito? Oppure magari se mi chiamavi forse mi veniva la voglia se eri uscito anche io, non lo so. La prossima volta che capiti in queste zone magari fai un colpo di telefono. Ma tu mi hai detto di no, che non ti piaceva, non so se te l'avrei detto, capito? Mi ha detto di no. E poi ci ha fatto un bel concerto tra le due, ma lasciamo perdere, due rozzoni che hanno presentato, che hanno detto delle cose, le hanno fischiate, le hanno detto fuori, fuori, fuori. Sì, me l'ha girato un mio amico, è finito anche su, penso su Facebook, il presentatore, che è praticamente il cantante stava tardando ad uscire e lui ha detto che forse sta facendo una pugnetta preventiva, qualcosa del genere, e la gente ha iniziato, oh imbecille, che qua ci sono bambini, ci sono ragazzine pure, capito? Ma in effetti un presentatore, cose da dire, sono in pubblico. E questo grazie a qua, grazie là, grazie al ca... Esatto, evidentemente era qualche squinternato o aveva bevuto, capito? Perché sembra strano uno, insomma, che salga sul palco a presentare che dica tanti di questi torpiloqui, capito? Cose indicibili proprio, roba da matti, in mezzo alla gente, ci sono ragazzini, ragazzine, capito? E poi devi avere anche rispetto, ci può essere gente di una certa età che magari dice ma questo è scemo, perché deve dire queste cose così in pubblico? Non sei con gli amici tuoi, capito? In spuntino che puoi fare le battute che vuoi. Qua sei in mezzo al pubblico, non sai chi c'è, chi non c'è. Però la mamma degli stolti è sempre incinta, dice il proverbio. Ma è stato quello che ha rovinato tutto. Perché lei, parolacce, non le ha detto. Lui che l'ha sboccato e infatti non ha fatto né ridere. Mi sono messi a gridare, non ci fai ridere, fuori, fuori, danno fischiato, insomma. E lei ha detto, un attimo di pazienza, arriva subito, facendo finta che erano impazienti perché volevano vedere a Max Pezzali, ma non era per quello. Lei ha cercato di tappare un po', ma lui è stato proprio un serragoni. E vabbè, comunque, il concerto poi alla fine è andato bene, l'importante è quello, sì, ad Alghero di Gugliu, perché c'era un DJ, eccetera, dice, no, abbiamo fatto un bello spettacolo, però era roba di ragazzini, nessuno lo conosceva, questo DJ. Gabri Ponte, è conosciutissimo, è anche bravo come, ha fatto ballare molta gente, li ha fatti divertire, io ho visto i filmati. Mi ha fatto divertire, Gabri Ponte è conosciutissimo, caro. Io lo conosco, l'ho conosco, dai, l'ho sentito nominare tante volte. E poi niente, non si è accontentato della cagata che va fatto, scusando la frase, alla fine ha detto, beh, adesso dovrebbe aver finito di farsi la pugnetta. Uiaia, uiaia, e va bene, va, cose che succedono. E niente, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, lasciamo anche un attimino di bianco, vediamo un po' se entra qualcun altro. Avanti, chi vuole entrare, 27075, canale 10, mi piace ascoltare, basta, caro. Ma comunque anche Max Pezzali penso che se ne sia andato due minuti prima senza fare gli auguri, di solito rimangono a fare gli auguri col sindaco e cose, non c'è rimasto, deve essere forse indignato per quello che aveva detto quello. Sì, sì, molto probabilmente è successo così, capito? Non so, io non l'ho visto partire perché a Capodanno sono rientrato di sera e non so lui se è ripartito da Alghero, se a che ora è ripartito, se è partito la mattina, io avevo il pomeriggio, però arrivato un mio amico della polizia, ho visto che ha messo le foto, capito, si è fatto le foto con lui, con Max Pezzali, quindi è arrivato ad Alghero e poi non so se è ripartito da lì oppure da Olbia. Ah, ok. Vabbè, comunque ha fatto un bello spettacolo, ha fatto cantare a tutti. È importante quello, dai, sì, beh, lui come artista, insomma, già è bravino, dai, a me non è che piaccia, però, diciamo, canta bene, ha una bella voce anche, non è che è suonato, eccetera, una voce particolare, lo riconosci subito, io l'ho visto anche cantare canzoni di altri insieme, già canta bene. E anche ha fatto qualcosa con Tiziano Ferro, lui se non sbaglio, duettando, era anche una bella canzone, l'ho sentita alla radio, infatti ho detto questo è Max Pezzali, poi si sentiva l'altro, per cui l'hanno detto, capito? Già è un artista, insomma, bello ingrassatello però, dalle foto che ho visto. Meglio che sia così, perché è stato male, ha avuto la leucemia, non è una cosa da scherzare. Sì, sì, sì, ho visto che era bello rotondetto, dai, dalle foto, ho detto meglio così, sicuramente qualche terapia, eccetera, è strano, era sempre abbastanza contenuto. Oia, niente, adesso domani sono curioso e mi metto un po' di impegno e vedo un po' di... perché dovrei avere un cavo bianco, RG58 bianco, e penso siano 20 metri, qualcosa del genere. Con quello riuscirò sicuramente a fare lo spezzone giusto e vedo un po' se si abbassa un po' le onde stazionarie in quell'antenna, perché sono curioso a vedere se va bene o meno. Poi l'allungo verso l'esterno della ringhiera per vedere se magari esce anche un pochettino meglio, capito? Perché porta e di quelle caricate omnidirezionale, e dovrei riuscire a metterla, insomma, appunto bene. Questa qui è quella che già tutto collega. Sì, sì, sì, me l'ha data. Dice, me l'avevano data, non l'ho mai usata, infatti la busta era tutta impolverata, però lei era dentro la busta, nuova, capito, mai usata, aveva ancora i bulloncini lucidi, capito, non è stata mai piazzata, capito, me l'ha regalata e allora quando te la regalano una cosa così può sempre servire. E quindi ero curioso, ho detto la provo a mettere così, però sai, senza istruzioni. Poi Marco che mi ha dato le dritte, adesso ho stampato il foglio e dicono che quel tipo di antenne, in teoria, il cavo deve seguire le istruzioni che ti dice la casa madre. Allora, ecco, Gianni Doppiorum, ci sei Gianni. Le stazionarie e questa radio se ne va in protezione, capito, andava in protezione, usciva SVRI che era alto, capito, e quindi ho staccato tutto e ho staccato l'altra. Domani però che ho più tempo, dalla mattina mi attento. Ma non sarà a massa? No, e comune, stavo leggendo alcune informazioni, gente che l'ha comprata non riusciva a tararla, e infatti uno consigliava questa cosa di seguire le indicazioni che ci sono nel foglio, quindi di tagliare il filo giusto come dicono nel foglio. Mi senti? C'è qualcuno in ascolto per darmi un Radio Santiago, grazie, qua San Pietro. Ovviamente se ne va per conto suo e si carica di stazionari e poi tutto la baradana. Ho capito. Vabbè, prova Carlo, con un po' di pazienza magari ce la fai. Sì, domani provo, prendo il metro, misuro più o meno quanto cavo mi serve dentro e così in base a quello che mi serve taglio lo spezzone giusto. Cioè, tanto ho trovato anche due PL nuovi, di quelli non in plastica ma in bachelite, quelli buoni, che ce li avevo da molto. E così mi faccio lo spezzone giusto e vediamo un po' se riesco a metterla a puntino domani. Dopodiché ci sarà il terzo passaggio, l'antenna sul tetto. Sì. Ecco, mi senti Gianni, mi scusi. Stazione base, però è piccola, capito, è alta, forse arriverà a un metro, capito? Però è tutta caricata, c'ha una specie di gomma tutta la lunghezza dell'antenna. Quindi... va anche bene e domani poi già mi farò sentire. C'è qualcuno che ci sta pulendo il QRM, crede di passarti ma non ce la fa, sta mettendo la portata e quando parli ma non ce la fa passarti, lo passi di brutto. Magari qualcuno che vuole entrare, avanti sul canale 10. Ma allora è quello il rumore che sentivo io sotto, sembra una specie di bru bru bru. Ci vuole pulire la frequenza, capito? Il QRM stava pulendo. Becco, avanti. Qua è San P di modulazione con Galaxy Saturn. Come ci siete? Abbastanza bene, aggiustato. No, questo è quello per ricambi e funziona più di quello primo. Ne mille durato. Qua non si molla, non si molla già. Bravo, bravo. E vabbè, te lo tiri quello là per ricambi. Ehia. Kappa, poi vuole sapersi che c'è un Saturneco per ricambi. Che se mi dovesse succedere che mi si guasta il mio, c'ho a te. Gaffa, questo è 6 bande, gli ho messo la rotellina cromata mia e c'ho il microfono Tanner più 3B o cosa per scritto. Sì, però se fischiate, mi sembra che c'è gli uccellini, o sono gli uccellini. E i canarini bisogno, magari è troppo amplificato. Conosci capi se sono gli uccellini o se è il microfono. No, rivisione, adesso mi senti come mi senti adesso, sono distante 40 centimetri, però ci sono i canarini a bordo. Perfetto, dai, già va bene, io ve l'ho chiaro. Avanti, c'è Marco e anche Carlo, dai. Ok, ciao Marco, ciao Carlo, qua è San Pio da Sorso. Come mi ascoltate? Mi ascoltate? Cambio. Sì, discretamente. Ciao Sampei, ben entrato. E io meno di 3 watt, GE di portante lunga. Meno di 3, qualcosina in più modulato. Va bene, comunque l'ascolto bene, diciamo come sempre, da discretamente. A Carlo volevo dire, quell'antenna lì, io di quell'antenna bazooka lì avevo perso una delle staffettine e in più l'ho persa in casa, scomparsa, a meno che non l'abbia prestata e mi sono dimenticato anni fa, magari l'ho prestata e mi sono dimenticato a chi l'ho data e ovviamente non è tornata, però secondo me è in casa ancora, vai Carlo. Ma già si trovano quelle staffettine così, capito? E domani che ho più tempo, tanto sono libero, come diceva Gianni, ho 20 metri di cavo RG58, però è bianco, non è quello nero, ma lo utilizzerò lo stesso e mi faccio lo spezzone giusto come indicato nelle istruzioni e vediamo se riesco ad abbatterlo questo SVR, se mandiamo giù le stazionarie, capito? perché se riesco a tararla forse quell'antenna magari va un pochettino meglio di quella che ho sulla ringhiera, capito? Carlo, ma come mai dalla fabbrica la danno che dalle stazionarie? Dovrebbero darla tarata già dalla fabbrica. Però capito, se la metti sul tetto magari è già tarata, invece mettendola a balcone, capito, devi utilizzare il cavo come ti dicono loro, capito? E se c'è ostacoli ci da stazionare. Ho già, io avevo provato quell'antenna nel terrazzino, però anziché rispettare le misure c'era un cavo casuale di 10 metri. Avevo provato e non aveva stazionaria e allora non ho cambiato cavo, l'ho lasciata così, però loro consigliano per abbassare le sicurezze di usare quelle lunghezze, chi lo sa, Carlo, però può darsi magari che metti la misura giusta e non va lo stesso, dipende. Sempre che non sia un difetto di fabbrica, anche se guarda, è talmente semplice con l'antenna, talmente primitiva che noi la chiamavamo negli anni 80 bazooka, antenna bazooka, vero già? Sì. Marco, non so se te ne sei accorto, c'è il letto. Sì, questo è di serie dell'apparato, cioè lo puoi togliere, è quello dell'apparato comunque, lei leggero leggero, non dovrebbe disturbare. Vediamo se San B mi copia con i 3 watt della radio. Attenzione, San B mi copi. Già, lo senti? Sì, quello con l'antenna, sta parlando dell'antenna. No, Marco, via. Attenzione Ciampei, solo con potenza bassa. Potenza bassa saranno 4 watt e mezzo, 4 watt modulati, dai. Di solito ne uso 70. Perciò le altre volte mi copiavi meglio, vai se hai copiato. Non mi intendi? Conta che c'ha problemi di ricezione però Ciampei, cioè gli arrivano tutti i bassi a Sassari. Ciampei! Caffa, dimmi già! Non l'hai sentito Marco? No, sento solo a Claudio mi pare. Claudio non ti vedi il dito. E allora è Marco, dai, non mi ricordo i nomi di poco fa. Allora, uno è Carlo, che è quello che stava parlando dell'antenna. Poi c'è Marco, poi ci sono io. E allora sento a Carlo, a Marco non lo sento. Caffa, avanti Caffa. Guarda se mi senti a questo passaggio, Sanpei, buonasera, come va? Dimmi un po' se mi senti, che io sono piccolo piccolo. Non intendi nulla. Senti solo a me. Ma già c'era questa cosa, tu ce l'hai davanti, no? Però gran parte delle stazioni di Sassari, anche Claudio, lui non lo sentiva proprio, cioè Claudio sentiva lui, presumo anche discretamente, ma Sanpei non lo copiava, Claudio non copiava a me con i watt normali, infatti come vedi non mi copia, e io lo copio bene a lui però. Forse attaccato, diciamo, però anche quando stacca, io lo copio lo stesso. Sanpei, vieni avanti, adesso scendo col Galassi e con l'antenna che sul tetto. Sembra si sia moderati. Guarda, lui arriva 8:30 da me, 8:30, quando stacca tipo 7, una cosa del genere, 7, però lo copio. Controlla il macchinino dell'apparecchio, Sanpei. Sì, adesso lo sto levando un po', com'è? No, mettila al massimo, si sente in basso. Lo sto levando. E il microfono? È il microfono, a meno che non c'è la batteria carica. Sta facendo bassissimo. Allora aiuto, qua c'è un problema. Magari è il microfono che è la batteria che non sta andando. Forse. Ma non ti sei abbassato di colpo così, boh. Mamma mia, già che assillo, ogni volta quei numeri spam, quei numeri con le voci automatizzate, salve, abbiamo ricevuto il tuo curriculum. Ma quale curriculum? Ma io non rispondo nemmeno, ormai come vedo Milano, Parigi, questo e quell'altro, spengo il buco. Sai cos'è però? Siccome c'ho mio cugino che modula, telefona dalla, che deve arrivare, dalla, Whiskiano, la Scozia, nemmeno l'Inghilterra, l'Irlanda, e c'è un prefisso simile, e non ho il numero in memoria nemmeno, penso sempre che sia lui e poi invece un altro numero, con questi prefissi strani. Io non ho manco guardato, ho detto, questo deve essere Luca, mio cugino, invece no. Vediamo se è rientrato Carlo. Sì, sono qua. Ma se io lo sento basso, lo sento, vabbè, che la mia antenna non è che da prendere per esempio attualmente, ma mi arriva Santiago 5, Radio 2, capito, in mezzo a QRM, capisco quasi il 90% di quello che dice. Prima, però gli ultimi passaggi che ha fatto non si capiva niente, si sente un rumore quando lui modula, capito? È una specie di trillio così, poi no, non lo sentivo più. Non c'era il microfono originale, Zampi, di quell'apparato. Zampi! Ehi, Alecinoggia! Metti il microfono originale, che esce bene col microfono originale, parli da vicino, esce bene. Ora lo provo, può darsi che qua si sia scaricata la batteria. Sta facendo un rumore, una cosa del genere, sicuramente c'è qualche filo magari che sta toccando, non lo so. Giorgio, va a blu. Prova normale, avanti Marco. Poi oggi sono piccolo e nero perché avevo attaccato questo apparato per vedere le stazionare in diretta, no? Con i 3-4 watt, e poi sono 3. E ho messo l'antenna diretta adesso, il rosmetro l'ho tolto, stazionario non viene, però appunto con pochi watt San Pino mi sente. Va bene, c'era anche Franco Binario prima. Antonello era andato in farmacia, un po' di gente c'era anche Luca di via d'Italia, poi non ho capito se doveva cucinare o... Io mi sono assentato più volte perché stavo facendo roba, e quindi va bene. E io li lancio per Carlo, vado di nuovo a bere. E io praticamente prima stavo cercando di cantare perché c'ho la voce molto bassa, rauca. Infatti anche ieri sera abbiamo fatto festa con gli amici, ho portato il karaoke a casa di questa amica, e abbiamo cantato lì, ma non rendevo, proprio la voce era rauca al 100%. E questa influenza lascia il posto, mi va la sorte. Carlo. Sì, stavo scrivendo una cosina, se non mi dimenticavo. Questo è il microfono originale già. L'influenza. Capito, c'è un mio amico, lo stesso mi ha chiamato, che lui è a Salerno. Una tosse che non poteva neanche parlare, capito? E si è preso l'influenza e quindi ha passato Capodanno con l'influenza, ma ancora è tutto intasato, capito? Tutto intasato. Poco fa sono uscito con mio figlio un attimino che è passato e c'è una specie di pioggerella che sembra quasi nebbia, capito? Tutta umidità, capito? Ieri ha piovuto quasi tutto il giorno e oggi c'è questa specie di cappa di umido micidiale. Anche ieri notte era così, c'era praticamente nebbia e ci scendeva questo pulviscolo finalmente pulverizzato, cavolo, proprio un pulviscolo così, e ti attaccava, ti bagnava la roba. Sì, come comunque cambiando discorso, come diceva Marco, stasera è entrato Franco, ero da molto che non lo sentivo, infatti lui dice, ma sei Carlo, ma qua mi arriva bene. Mi senti già, un microfono originale. Io ho detto, ma sto modulando da un'altra postazione, quindi non sono più là uscivo bene perché avevo sul tetto l'antenna. E spero di riuscire a metterla, dai, quando farà bel tempo. Vedo un po', capito, e qualcosa spero che si possa mettere. È importante che ci sia un posto dove mettere un pezzettino di palo, capito? E almeno averla sul tetto, l'antenna esterna, è già qualcosina in più. Perché davvero riuscivo ad arrivare tranquillamente ad Alghero, a Porto Torres, a Sorso, capito? E diciamo che arrivavo anche a Bonnannaro, Ottieri, capito? Facevo un bel po' di collegamenti, anche in banda laterale, capito? Però adesso qua non, non è che posso fare grandi cose con queste antennine, capito? Comunque per la città va anche bene così la sistemazione attuale. Questo è il microfono originale già. Mi faccio questa ulteriore prova con quell'antenna lì, provo un pochettino a staccarla più dalla ringhiera con un braccio che ho che si può attaccare alla ringhiera e così mi stacca l'antenna e poi vedo un po' se riesco così a tagliando il cavo ad abbattere le stazionarie. Via Carlo, dai. E diciamo che quell'antenna lì è performante, quella che c'hai, non la lasciare quell'antenna perché anche da lì esci bene, perché la zona è buona quella lì, non ti credere che sia meno di dove. E vabbè, comunque era giusto per vedere, comunque qualche altra antennina penso di procurarla, se non va bene questa la conservo, tanto me l'hanno regalata, la metto via per qualche altra occasione, magari può servire a qualcuno in emergenza eccetera, e vediamo un po' dai come gira. E qualche altra antenna penso o provo con una boomerang, forse quelle creano meno problemi di stazionarie, e devo vedere un pochettino. A me la boomerang che mi dava tre di stazionarie non sono riuscito ad abbassarle, ma forse perché c'era il muro vicino e per quello, anche io l'avevo messa sul terrazzo. Vabbè, a parte che mia moglie quando va a stendere era un casino, quella di sopra quando si andava le lenzuola lì si agganciava ed era un casino e l'ho dovuto a tutti. Oh Gianni, dimmi Marco. Ma ti volevo chiedere, ma da pochissimo è morto qualcuno riconosciuto nell'ambito CB o rivenditore di via Carlo Felice, qualcosa del genere? Perché ho visto un messaggio di Antonello in ritardo. Però non è interpretabile come l'ha scritto lui. Che sappia io no, non so niente, non ho saputo nulla. Carlo Felice mi ha detto. Allora, qua dice morto Tonino della GBC, però prima c'è un nome, prima di questa frase. Non ho capito cosa c'entra, o gliel'ha detto lui. Se Antonello rientra chiarisce questo giallo, se no lo chiamo. Aggiustava le radio, ho capito, ha messo a posto la radio che adesso c'ha Gianni. Ho capito così, solo che Gavino è entrato un attimo e poi non ho avuto modo neanche di parlarci con lui e quindi non lo so che se stava dicendo perché lo ha sentito o magari da qualcuno che lo conosceva, capito? Però via Carlo Felice c'è la GPC e c'è Tonino, quello che insomma ha il negozio e gestisce lì quella specie di bazar, adesso è diventato. Carlo, abbiamo parlato parzialmente in due, ti chiedo scusa. Sì, no, il messaggio dice testualmente Giove morto Tonino della GBC, quindi forse gliel'ha riportato Vittorio Giove, casomai si tocchi le balle Vittorio Giove, però così il messaggio è un po' mal formulato, ecco. Riprende Gianni. Magari l'ha messo lui, capito? Io non ho visto nulla su Facebook, sinceramente, che solitamente i messaggi di Antonello mi appaiono, anche se scritti un po' così. Gianni, dimmi cazzo. Ti ricordi l'altro giorno che stavamo parlando di quella radio da rimettere a posto? Non mi ricordo chi fosse, che io avevo suggerito, a meno che non la porta da Albino a Borore, ed è entrato Gavino che diceva che aveva saputo che Albino era morto, non c'era più. Hai capito anche tu così? Sì, sì, sì, sì, ha detto così, non è che ho capito, l'ha detto lui. Ha detto, ma cosa Albino, che Albino è morto? Caspitina, non sapevo niente, io ce l'ho ancora su WhatsApp, capito? E io l'ho conosciuto perché ci sono andato per fare mettere a posto la radio che hai tu adesso, capito? E ci sono andato un paio di volte, e poverino era anche giovane, chissà che cavolo gli è preso. Ogni tanto se ne sa una. Questa di Tonino della GBC, io alla GBC ci sono andato anche da poco, sarà 20 giorni fa, una cosa del genere. Non mi ricordo cosa stavo cercando, forse qualche batteria, qualche cosa di quelle batterie particolari, CR9220, qualcosa del genere. E sono capitato lì in quella zona, mi sono fermato e c'era Tonino, capito, una ventina di giorni fa. E mi sembra una cosa strana. E Tonino ultimamente era molto, diciamo, molto giovane. Io sapevo che aveva una malattia importante, o qualcosa comunque di non buono. E continuava a lavorare. E vabbè, era riportato da Antonello, mi aveva detto che aveva qualcosina un po' che non andava già qualche anno fa. Però Antonello non è che sia una fonte troppo attendibile. Vediamo se era entrato questo proprio. Antonello, se era entrato, se no lo chiamo al telefono dopo. Prova a chiamarlo. E prima era in radio, poi ha detto che sarebbe uscito, che doveva fare commissioni, e ha detto che sarebbe anche rientrato in radio, capito? Adesso vediamo, ma più o meno tanto si verrà a sapere. Se vediamo tutto chiuso, capito? Anche se le vetrine non ne stava più riserrando, erano tutte impolverate, non si vedeva più niente, capito? Era tutto in stato d'abbandono quel negozio. Peccato, perché vendeva e andava bene per tanti anni quel negozio, poi è decaduto. E ci andavano tutti i tecnici a comprare i pezzi, veniva anche componenti, tutta questa roba. Ma lui c'ha roba vecchia, che componenti vecchi che non si trovano più in quei cassetti, è pieno di componenti. Sì, sì, già lo so, io ci sono andato tante volte da lui e ho comprato anche tanti anni fa anche qualche radio, mi sa che avevo preso un Midland di quelli 34 canali, capito, da lui, me l'aveva dato scontato e quindi gliel'avevo preso. E aveva anche diverse radio, aveva anche VHF Marini, un tempo era fornito di tutto, aveva radio PMR, capito, aveva di tutto, c'era anche un ragazzo che lo aiutava e trovavi di tutto, sempre pieno di gente, a volte dovevi fare la fila, capito. Poi nel giro di poco tempo è decaduto proprio, è diventato un immondettaio quel negozio, è tutto incasinato, lui appariva dal niente, non vedevi più niente, capito? E molte volte ti diceva no, non ce l'ho, secondo me ce l'aveva, non sapeva neanche lui dove fosse, perché più componenti, capito? Ma poverino, se è successo così, non ci possiamo fare niente, pace all'anima sua. Mi dispiace perché anche io lo conoscevo e tante volte ci sono andato. Era un po' un'istituzione, dai, anche per molti di noi che ci sono andati. A te il cambio, Gianni. E noi ci davamo del tu, a me mi conosceva bene, ma forse era il negozio più fornito, forse il più fornito a Sassari ai vecchi tempi. Un periodo ce l'ha avuto uno con i baffi, non so se l'avete conosciuto quando ce l'aveva quello. No, quello non me lo ricordo. Io ho conosciuto Tonino perché io, diciamo, da giovane ero sempre a Bonorva, però poi quando venivo a Sassari, che mi è capitato di andare in GBC, diciamo intorno agli anni 85, 90, diciamo c'era già Tonino lì, io l'ho conosciuto da un sacco di anni, sempre lì. E anche io gli davo del tu, capito, perché ti metteva, insomma, a tuo agio da tanto tempo. Sì, sì, sì. E io una volta gli avevo comprato questo praticamente rosmetro, wattmetro della Midland, grande quanto il Galaxy, da stazione, mi piaceva perché c'aveva le luci, tutto quanto, era bello. Sono andato a accenderlo e non accendeva. C'aveva il filo legato con un elastico che si era incollato, sciolto sul filo. e l'ho riportato indietro il dottor di questa cosa, l'ho funzionato, ma sei sicuro? Se è insicuro solo, a parte gli ho detto che questo qui è stato già usato, perché caso che c'è, non è che la fabbrica mette l'elastico e c'è l'elastico tutto sciolto. Magari, sai, le cose molte volte si rovinano anche se non le usi, capito? Probabilmente la scala a confezione è stata aperta, poi hanno legato il filo così e hanno messo un elastico che si è deteriorato e sciolto nel tempo, capito? E si è, diciamo, avvolto tutto nel filo e probabilmente ha preso umidità, chissà da quanto tempo ce l'aveva lì, perché quel negozio era molto umido e di quei negozi con le volte alte, capito, che almeno 5 metri. Ma non funzionava nemmeno, capito? Io l'ho pagato un bel po' di soldi per la parete, 120.000 lire per una cosa, ma era grande quanto un Galaxy, la larghezza era quella del Galaxy. E c'era rovetro, vatometro, distorsore, c'erano tutti così in fila, ma era bello, le luci che si accendevano, però non funzionava, tu cliccavi la portata e non funzionavano così gli strumenti. Sì, molto probabilmente radio è rimasta ferma troppo tempo e magari qualcosa all'interno si è rovinato, capito? Quella era tutta da revisionare, lui in teoria te la doveva ritirare, capito? Ridarti i soldi e poi la doveva mandare di nuovo in assistenza e far rimettere a posto. No, pensavo che ero ritornata e avevo preso Midland, qualcosa del genere, dello stesso valore. Non mi ricordo se avevo anche aggiunto soldi. Avevo preso una 48 di quelli tipo vecchio, dai. Marco non risponde, e poi c'è al telefono con Antonello, e comunque ha fatto la storia da Gibici, perché era il negozio più fornito a Sassari, ce n'era un altro in Viale Umberto, non so se tu l'hai conosciuto, che vendeva antenne e tutta questa roba. Quello forse me lo ricordo, capito, di Viale Umberto, capito, ma quello ha chiuso da tanto tempo, capito. Ma io alla GBC andavo perché a Bonorva c'era un radiotecnico che riparava televisori, era anche radioamatore, e poverino è morto adesso, e qualche volta mi aveva mandato a comprare, lui aggiustava TV, quindi comprava pezzi di ricambio per le TV, eccetera. Mi aveva mandato lì a comprare delle componenti per TV, capito? E quindi io la GBC l'avevo conosciuta tanti anni fa, perché facevo questi favori a Gianni, si chiamava Gianni Pugioni, è morto già almeno 15 anni buoni, gli era venuto un tumore, era bravo comunque, bravo radiotecnico, aveva il laboratorio, lì aveva radio di quelle per radioamatori, tutti gli strumenti per il lavoro, saldatori di tutti i tipi, stavo sempre nel suo laboratorio io, capito, da ragazzino, e quindi lo chiamavano di soprannome Gianni Muccio, capito? Perché da bambino dice che ci aveva sempre i candeluti al naso, capito? E quindi nei paesi era così, bastava poco, ti mettevano subito il soprannome. Però poverino era molto gentile, capito? A me mi aveva messo lui la passione delle radio, perché aveva due portatili, me li aveva regalati, capito? E ogni tanto mi chiamava, erano di quelli con, come si chiamavano, con le frequenze fisse, capito? Che le potevi cambiare aprendoli e cambiando proprio i, non mi ricordo neanche come si chiamano, mi sfugge il nome. Ed erano così, avevano due canali, tre canali massimo, di quelle antenne stilo che si tiravano su, non mi ricordo se erano della General Electric, roba vecchia, capito? Lui aveva l'antenna grande da radioamatore, ne aveva diverse, aveva anche qualche dipolo, mi ricordo, e stava sempre lì in laboratorio, quando non stava aggiustando televisori era sempre alla radio, capito, facendo esperimenti, e stava sempre così. Ecco, se si chiamano i quarzi. Bravo, bravo, non mi veniva, i quarzi, capito, c'erano stampati il numero della frequenza, mi ricordo, e lui mi diceva, se vuoi te li cambio io, e così così me l'aveva insegnato lui, poi l'avevo visto fare una volta, e quindi me ne aveva dato un po', quindi mi divertivo io a cambiare i canali con questi quarzi, sembrava che facesse chissà che cosa, lui invece era una fesseria, capito, che potevano fare tutti. Però, capito, le prime esperienze erano quelle lì della radio. Rieccomi. C'erano quelli di ricezione e quelli di trasmissione. E non vale chi lo portava.